Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Tra i filoni della cosiddetta financial technology di cui ci stiamo occupando in questi giorni a Smart City ce n'è uno che può fare la differenza nella lotta alle truffe assicurative, al traffico di opere d'arte, di oggetti unici e preziosi. Si tratta di una delle implementazioni della blockchain, un algoritmo geniale con meno di 10 anni di vita di cui abbiamo descritto le caratteristiche principali proprio martedì scorso. Una blockchain è un database condiviso sulla rete e altamente sicuro dal punto di vista informatico. Un database dove i dati sono di tutti e di nessuno ed è l'ideale per implementare nuove forme di tracciabilità degli oggetti di valore. Una sorta di certificato digitale universale. E proprio a questo obiettivo mira Everledger, una startup tutta italiana ma con sede a Londra, di cui ho incontrato il responsabile dello sviluppo del business, Calogero Scibetta. Sentite com'è andata. Allora, il problema che cerchiamo di risolvere è il problema della tracciabilità e della provenienza degli oggetti di beni di valore. Per esempio, niente mi ferma dal chiamare il mio assicuratore e dire che un orologio che ho comprato è stato rubato o perso, fornire i documenti che ne attestano il titolo, il possesso e l'autenticità, avere il mio sinistro pagato, ma in realtà ho ancora l'oggetto. Quindi l'assicuratore oggi non ha nessun modo di verificare l'identità e dov'è l'oggetto che ha già fatto parte del mio sinistro. Quindi non solo lo stesso oggetto, io lo posso riassicurare con un'altra assicurazione che non riconoscerà che io per quell'oggetto ho appena ricevuto un rimborso per un ipotetico furto, no? Assolutamente, perché i documenti che provano l'esistenza di un oggetto e il suo possesso non sono condivisi tra i differenti operatori della catena e neanche tra gli assicuratori stessi. Quindi un'assicurazione non sa se un oggetto è già stato assicurato da altri oppure no. E qui per esempio il problema si pone con i diamanti sui quali voi state lavorando, così come sulle opere d'arte, sui vini particolarmente pregiati. Ma stiamo un attimo al diamante, che ha già dei suoi meccanismi di certificazione. Intanto ogni diamante è unico, è vero? Sì, assolutamente, ogni diamante tagliato è unico e ha delle caratteristiche che permettono di identificarlo in maniera univoca. Sono i carati, i colori, la chiarezza e poi tutte delle dimensioni e degli aspetti fisici che vengono registrati su un certificato di autenticità che viene rilasciato da diverse case di gemologia che ne assicurano il valore in un certo senso. Ma il problema di questi certificati, che sono ancora dei certificati cartacei, quindi sono facilmente manipolabili e soprattutto non hanno una connessione con l'oggetto stesso, quindi in realtà sono dei certificati che attestano il valore di qualcosa al quale non sono collegato. E non sono collegati in modo così evidente, certo. Qual è la soluzione che voi avete immaginato a questo punto? Allora, l'idea è molto semplice: partire da un'idea di creare un database distribuito tra tutti gli operatori della filiera, dei diamanti, dell'arte o del vino, dove in realtà tutte le varie ispezioni che vengono fatte nei vari punti, nel vario ciclo di vita dell'oggetto, possono essere aggregate in un'unica soluzione e condivise tra i vari operatori, ovviamente senza compromettere informazioni che possono essere competitive, ma che effettivamente permettono a ogni operatore di attestare l'identità e l'autenticità di un bene. Quindi in realtà ci permette di dire se un bene è già assicurato, se un bene è già finanziato o semplicemente di evitare di rivendere lo stesso bene diverse volte online, per esempio. Chiarissimo, quindi diciamo che voi utilizzate poi questa tecnologia appunto chiamata blockchain, che consente di creare dei database distribuiti ma sicuri, cioè dove tutti possono andare a vedere, ma non si può modificare in modo così impunito il contenuto. Quindi in pratica, per esempio, un'assicurazione vedrà che un certo diamante, che è identificabile univocamente, vedrà se è oggetto o meno di un'assicurazione. Non saprà mai con chi altri è stato assicurato o per quale valore. Queste sono informazioni che non si vogliono rendere pubbliche, ma si sa se è assicurato o no. Assolutamente, perché la blockchain permette di segmentare i dati in maniera in cui soltanto dei dati che permettono di identificare l'oggetto ma che non creano un vantaggio competitivo siano condivisi, e quindi in realtà permette, come dicevi, di verificare se un oggetto è già assicurato, se un oggetto è già online oppure se magari un documento legato a un oggetto è stato modificato e non rispetta lo stesso oggetto. Allora, l'idea del blockchain è quello di effettivamente creare questo sistema distribuito, quindi tutti gli operatori che fanno parte di questo partecipano, partecipano e quindi hanno una responsabilità dei dati, ma allo stesso tempo tempo hanno un sistema per verificarne l'autenticità. E per controllarsi un po', diciamo così, a vicenda, oserei quasi dire. Sì, diciamo, adesso non vorrei entrare nello specifico, però diciamo esiste un meccanismo di consenso dove diciamo una larga parte dei partecipanti deve accettare una transazione, quindi in realtà permette di avere verificare questo... Verificare prima. Esatto. Quindi se vuole riduce il rischio di pirataggio informatico, perché se uno degli operatori viene piratato in realtà non impatta l'integrità dei dati del resto. È tutto anche per questa sera, appuntamento a domani per la quinta puntata dello speciale di Smart City dedicato alla fintech. Buona serata!